Italia in controluce. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Oggi è il 25 di giugno, oggi parliamo di quella che ho definito la svolta siciliana, perché la Sicilia per 20 anni è stata politicamente il feudo di Forza Italia, prima del Popolo di Libertà dopo, e ancora prima della Democrazia Cristiana. Diciamo che la sinistra in Sicilia è sempre stata enormemente minoritaria. Invece con le ultime elezioni amministrative la geografia politica sembra cambiata, perché a Ragusa ha vinto il Movimento 5 Stelle, a Messina è emerso il leader del comitato contro il ponte sullo stretto, quindi un comitato molto forte e radicato nel territorio, mentre a Siracusa il sindaco è del Partito Democratico. Comunque in tutti i comuni siciliani, gran parte dei comuni siciliani, il Popolo della Libertà, il centrodestra, perde. Secondo voi perché in Sicilia c'è questa svolta siciliana? Per quale motivo? C'è un motivo locale oppure, per esempio, aggiungo il lavoro che è stato fatto alla Crocetta e la simbiosi, il lavoro comunque in comune con il Movimento 5 Stelle ha dato dei frutti importanti, oppure quello che è accaduto è soltanto un voto di protesta, un forte voto di protesta. 349-238-6666, i vostri sms per capire cosa è accaduto. Mi collego con Nino Amadore, collega del Sole 24 Ore, che è a Palermo, e chi meglio di te conosce la situazione siciliana. Perché è accaduto tutto questo? Buongiorno a tutti. Sicuramente c'è la crisi della destra, che si è spaccata, si è divisa, con Micciché che è andato da una parte, un altro pezzo del PDL che è andato in un'altra direzione, non è riuscita a dare un'offerta politica coesa e credibile, almeno né in occasione delle regionali né ora in occasione delle amministrative. Questo è sicuramente un primo dato. Il secondo dato, che forse è anche conseguenza del primo, è la disaffezione, la gente non va a votare, i siciliani andavano in massa, votavano tutti a blocco, la DC qui ha preso il 51%, è la regione bianca insieme al Veneto, insomma, faceva in Italia il pienone, la DC faceva il pienone e poi ha fatto il pienone anche il PDL, come hai ricordato prima, e però intanto le persone non vanno perché non credono evidentemente più in questo tipo di offerta politica, ed è la seconda questione. La terza questione è che lì dove c'è stato il ballottaggio, chi è tornato a votare ha votato per candidati antisistema, li ho definiti io, cioè Piccitto a Ragusa e a Corinti, a Messina, dimostrano che i cittadini hanno voluto puntare sul cambiamento, sul cambiamento forte, sulla cesura con il passato. Certamente il ruolo di Crocetta, del governo regionale, lo stesso Crocetta fondamentalmente è un candidato di rottura con il passato, perché lui viene da un'esperienza di rottura a Gela e poi da governatore cerca anche sul piano della comunicazione di dare delle indicazioni di questo tipo. Evidentemente i siciliani hanno necessità di rompere con quella tradizione politica che era di conservazione e forse stanno emergendo, anzi probabilmente stanno emergendo anche bisogni nuovi leader. Ecco, ti leggo due sms, due dei tanti sms sono arrivati al 349-238-6666 proprio sulla Sicilia, perché sono frutto anche un po' di quello che alcuni credono. Per esempio Maria Rosaria dice: io penso che la Sicilia abbia fruttato il vento, cioè 20 anni prima diede la vittoria di Berlusconi, oggi in qualche modo la sua dissoluzione. E un altro ascoltatore dice: Mario, tutto accade perché la mafia vota un po' dove tira il vento. Poi ci sono altri ascoltatori, uno dice: ci possono essere due motivi, i cittadini hanno capito che l'alternanza aiuta oppure i partiti hanno finito i soldi per comprare i voti. C'è chi contesta il fatto che ci sia una svolta della sinistra, infatti diciamo che c'è stata una svolta non proprio e non solamente di sinistra, aggiungo io, rispondendo a Claudio da Verona. Ecco, ma per esempio la domanda del nostro ascoltatore Mario quando dice la mafia vota dove tira il vento. Questo, in occasione delle regionali abbiamo commentato questo elemento e già alle regionali ebbi modo di dire che la mafia è vero che vota dove tira il vento, ma la mafia non, diciamo, per tradizione storica non avrebbe e non voterebbe mai uno come a Corinti né uno come Crocetta, né, diciamo, che sono solitamente considerati comunisti e rompiscatole, perché per Cosa Nostra è vero tutto, diciamo, si può immaginare tutto, ma non si può certo immaginare uno come a Corinti che si presta a giochi di potere. Poi vorrei anche sottolineare due aspetti. In questo momento noi stiamo parlando di due città come Messina, una è Messina e una è Ragusa, dove l'elemento diciamo organizzativo palese di Cosa Nostra è emergente, anche se la mafia in ambedue i luoghi, a Ragusa molto meno, ma Messina è organizzata e presente. La verità è che Cosa Nostra non ce l'ha un interlocutore in questo momento, perché i giochi sono completamente sparigliati, non c'è un'offerta forte, perché dove l'offerta... Cioè abbiamo dei problemi, comunque abbiamo capito il discorso, Nino, siamo anche quasi in chiusura, quindi moltissimi sono anche i vostri sms. Per esempio Roberto dice forse perché la mafia non convoglia più i voti, perché si è spostata verso altri interessi, in quanto i comuni non hanno più soldi da investire ma soltanto debiti. Per chi come Andrea Magnani da Carpi, provincia di Modena, ineggia il Movimento 5 Stelle, perché solo le liste civiche e il Movimento 5 Stelle, secondo Andrea, potranno fermare la mafia. Mutazione da Gattopardo, dice Andrea da Bologna, passaggio di testimone per la gestione clientelare dell'amministrazione pubblica. Comunque voi la pensate, questa è Italia in controluce, ci sentiamo domani come sempre 13:30, mi raccomando Facebook, pagina e gruppo, mi raccomando Twitter e la nostra email controluce@radio24.it.